Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7-9 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, come stanno andando le borse, che avevano aperto deboli, per carità, ma adesso stanno peggiorando, meno 5% Francoforte, ci risiamo. Io, quando si invita alla prudenza, ogni tanto si fa forse del bene, ma delle volte anche si è quasi eufemistici. Parigi meno 4,55, Londra meno 3,51, l'America meno 3,24. Questa mattina il là alle danze dei ribassisti l'aveva dato Tokyo, meno 6,80%. In realtà quello che sta peggiorando a vista d'occhio è la situazione a Madrid, dove la borsa è arrivata a perdere il 9%. E nel frattempo, perché ci sono molti rischi, timori di una possibile esposizione, quindi danno finanziario di tutti i grandi colossi spagnoli che hanno attività in Argentina. Anche qui prendiamo le cose con prudenza, senza fare allarmismi. È circolata la voce sul mercato di un possibile default, ossia crack finanziario nuovamente in Argentina. Cercheremo di capire perché. Che il mercato su questo quantomeno speculi, lo vediamo anche da Tenaris, che è il gruppo attivo nell'acciaio, il gruppo italiano Tenaris della famiglia Rocca, che però ha molte attività in Argentina, e il titolo perde il 14,3% in questo momento a 7,7 euro per azione. Molto male anche Finmeccanica, perde il 10,4% a 9,6 euro per azione. Anche questo andrà approfondito, perché insomma Finmeccanica ha confermato gli obiettivi, ha fatto un aumento di capitale, ha fatto un accordo con Abu Dhabi, eppure qualche giornata che il titolo viene bastonato in borsa, non penso per operazione di RS Technologies, ma insomma vedremo. In pregilo meno 6,4, Saipem meno 6, Unicredit meno 6%. C'è una notizia di un allarme bomba nella sede di Piazza Cordusio a Milano, nella sede di Unicredit in Piazza Cordusio a Milano. Adesso vedremo anche con la nostra redazione se riusciamo a capire che cosa sta succedendo. Sono arrivati i carabinieri con i cani antiesplosivo, dopo che intorno alle 4:04, leggo l'agenzia assieme a voi, una telefonata ha annunciato al centralino della banca la presenza di un ordigno esplosivo. Speriamo si tratti di una azione così, di un deficiente e basta, ma senza nessuna conseguenza. Ancora andiamo avanti sui titoli di questa puntata, parleremo quindi di borse, aspettiamo però la chiusura, aspettiamo di capire cosa succede esattamente con la vicenda argentina. Inizieremo dal mondo dei consumi. Oggi c'è un rapporto anche di Confcommercio, dopo che ieri l'OCSE ha detto l'Italia è il paese dove negli ultimi 20 anni la forchetta tra chi è ricco e povero si è ampliata in maniera fortissima, con un 33% di aumento del divario, mentre nel resto dei paesi OCSE il divario si è aumentato ma è del 10%. E questo insomma non è una bella notizia, anche perché l'Italia negli anni 80 e 90 era un paese in cui il divario tra ricchi e poveri era abbastanza ridotto, sul livello meglio della Francia e leggermente meno della Germania. Ora siamo scivolati a livelli di divario sociale che ci sono solo nei paesi del sud Europa, quindi Spagna, Grecia e Portogallo. Ancora parleremo di Microsoft, visto che domani presenta i conti trimestrali, un'intervista che abbiamo realizzato con il numero uno di Microsoft Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiaramente avremo anche la voce di Neodoris. Mediolanum ha annunciato che tutelerà tutti i propri clienti che avessero comprato pacchetti, polizze, index linked e quant'altro con dentro obbligazioni Lehman Brothers. Quindi questa è la linea che sta emergendo, l'ho confermato oggi anche l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Ieri abbiamo avuto qui ospite il direttore generale dell'ANIA, quindi le assicurazioni, stessa linea per quello che riguarda le cause legali. Tra l'altro l'ABI oggi nel suo direttivo a Milano ha negato che vi sia bisogno di aumenti di capitale in alcune banche dopo le dichiarazioni di ieri sera del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che aveva detto forse due o tre banche oltre a Unicredit avranno bisogno avranno dei vantaggi nell'aumentare il proprio capitale. Dicevo 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente la notizia in breve. Allora, un po' di calma, chi sta già scrivendo, un attimo ancora, insomma, poi arriveremo a tutto. Partiamo da qualche buona notizia, giusto così per fare un atto rivoluzionario in questi mesi. Allora, le buone notizie di oggi sono che il petrolio è sceso sotto i $70 al barile, a $68, ed è a questo punto basso, uno dei livelli più bassi da più di un anno a questa parte, mentre anche i mutui, ossia l'Euribor, il tasso utilizzato per i mutui a tasso variabile e altri prestiti, l'Euribor a tre mesi è sceso al 4,94% e quindi ampiamente sotto il 5%. L'Euribor a un mese è sceso al 4,61%. A questo punto, vado a memoria, ma dovrebbe aver incamerato tutto il taglio dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea. Sempre sui mutui, tra l'altro, il tasso medio applicato alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, oggi lo ha comunicato l'ABI, è pari al 5,85%, in calo rispetto al 5,96% del mese precedente. Le borse ne parleremo tra un attimo. Comunque, a chi continua a chiederci i titoli peggiori a Madrid, che è arrivata a perdere tra il 7 e l'8%, sono Repsol, quindi colosso petrolifero spagnolo, Telefonica, gruppo telefonico che tra l'altro è presente anche in Telecom Italia. Telefonica è arrivata a perdere oltre il 9%, Repsol il 15%, e poi il Banco Santander, anch'esso molto presente in Argentina, è arrivato a perdere più del 10%. Tenaris sospesa anche a Milano a un certo momento durante le contrattazioni per eccesso di ribasso, effetto Argentina, dicevamo, sul titolo. Il titolo Tenaris, tra l'altro, è quotato alla borsa di Buenos Aires, quindi in questo senso cercheremo di capire anche quali siano altre novità. Ancora sui mutui, Wachovia, rosso record a 24 miliardi con le svalutazioni per la banca americana che sarà acquisita da Wells Fargo. E come ricordava anche il nostro GR, è stato confermato che il prossimo 15 novembre, quindi già con un nuovo presidente in pectore in America, vi sarà il vertice tra i capi di governo dei 20 principali paesi al mondo per discutere della crisi economica. Allora, adesso dalle buone notizie, che erano queste due qui, passiamo a notizie non così buone. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale cadrà ai minimi nel prossimo anno dalla recessione del 2001-2002. E secondo Standard & Poor's, l'Europa sembra a questo punto essere in recessione. La contrazione economica si è trascinata anche nel terzo trimestre. E poi Gordon Brown, primo ministro britannico, dice il paese va verso la recessione. E questo, insomma, Gordon Brown mica tanto, non ha colpe, però insomma tutto questo insieme di notizie fa tornare, ahimè, in auge un nostro vecchio caro amico. Il nostro caro gufo che da un po' ci aveva abbandonato, noi speravamo di mandarlo proprio in pensione, ma non mi sembra il momento. Allora, queste le notizie principali. Sul fronte anche bancario ci sono varie dichiarazioni per quello che riguarda l'esposizione delle banche. Ha detto oggi Corrado Passera, amministratore legato di Intesa San Paolo, che non vi è nessun problema, non c'è, si è detto per nulla intimorito dalle parole del Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha avanzato l'ipotesi che altre 2-3 banche, lo ricordavamo, dopo un incredito abbiano bisogno di aumenti di capitale. Il presidente della Popolare di Milano Mazzotta ha detto nessun bisogno di aumento di capitale, lo ha escluso anche il presidente della UbiBanca Zanetti, questi le banche indicate oggi da alcuni giornali. E il presidente dell'ABI Corrado Faissola ha detto non conosco il significato delle parole di Berlusconi. Sempre Faissola ha poi confermato che dall'ABI, dall'Associazione Banche Italiane, arriverà un'assistenza a tutti gli obbligazionisti di obbligazione Lehman Brothers, mentre i due maggiori soci di Mediolanum, la famiglia Doris e la Fininvest, che hanno emesso polizze Index Link con dentro anche obbligazioni Lehman Brothers, si faranno carico di tutte le perdite dei clienti. Sempre in tema di mutui, ma questa volta legandoli all'economia reale, da un lato il mercato della casa è in netta contrazione, lo è quantomeno sul fronte dei mutui, meno 5% il dato emesso dall'osservatorio mutui casa di Unicredit. E sempre in tema invece di imprese, questa mattina il ministro del welfare Maurizio Sacconi, parlando delle misure che il governo sta studiando per attutire gli effetti che la crisi finanziaria potrebbe avere, già sta avendo sul mondo delle imprese, soprattutto piccole e medie, ha detto stiamo pensando a incentivi per tutta la generalità delle imprese. Condivido quello che ha detto la presidente Marcegaglia. È necessario sostenere diffusamente tutto il sistema delle imprese, a partire da quelle artigianali, piccole e medie, attraverso la garanzia della liquidità ad esse, perché la recessione, se si produce, nasce proprio dal fatto che viene meno la liquidità delle imprese, che fanno fatica a capitalizzarsi da un lato, e dall'altro il credito potrebbe essere loro razionato, per non dire fortemente ridimensionato. Invece noi dobbiamo fare in modo, e in questo senso abbiamo già operato e ulteriormente opereremo, affinché tutte le imprese possano disporre di quella corretta liquidità che ad esse deve essere riconosciuta in funzione delle loro buone caratteristiche, dei loro buoni progetti. Come può farlo il governo? In parte il governo lo ha fatto già nel momento in cui ha garantito stabilità al nostro sistema creditizio, ha garantito liquidità al nostro sistema creditizio, ha creato condizioni perché a sua volta esso possa garantire liquidità al sistema delle imprese, e probabilmente questa strada può essere ulteriormente rafforzata, e a ciò si sta riflettendo. Quindi il tema è come diffusamente evitare ciò che ieri il governatore Draghi ha detto potrebbe essere la base della recessione, il razionamento del credito. Dobbiamo evitare ciò, sostenere i consorzi fidi, le cooperative di garanzia, tutto ciò che può concorrere alla capacità operativa delle imprese. E sempre il ministro Sacconi, per quello che riguarda il tavolo sui contratti e quindi un nuovo modello contrattuale, il tavolo che vede il confronto tra Confindustria e sindacati, ha detto meglio chiudere senza CGIL che non chiudere del tutto. E adesso entriamo nell'ultimo aspetto toccato oggi, tra i principali aspetti, dalla presenza del ministro Sacconi al programma Viva Voce con Alessandro Milan, lo avete sentito porre alcune domande, e cioè il tema dei cosiddetti ammortizzatori sociali. Perché lo tocchiamo adesso? Perché questo ci porterà a parlare poi del rapporto OCSE, di una difficoltà dei consumi, del divario tra ricchi e poveri in questo paese. Sacconi ha detto questa mattina ai nostri microfoni: stiamo ragionando a un piano di sostegno della disoccupazione. Noi dovremo cercare nei prossimi mesi di accentuare la protezione di queste persone, e a questo ci stiamo dedicando. Da un lato rendendo più diffusi i cosiddetti ammortizzatori sociali, i sussidi al reddito di chi perde il posto di lavoro, e dall'altro cercando di rafforzare i modi con i quali accompagnarli ad un altro posto di lavoro. Stiamo ragionando intorno ad un piano di sostegno della disoccupazione. E Allora vedremo se vi sarà anche il modo di, dopo il rapporto di una settimana fa, sempre dell'Ocse, che diceva l'Italia, insomma il paese anche di Bruxelles, l'Italia è il paese dove le politiche, i soldi spesi per il welfare sono quelli che riescono meno a incidere sulla povertà rispetto ad altri paesi in cui ammortizzatori sociali, assegni per le madri, neomadri singolo e tutto un insieme di vantaggi riescono a incidere per un 40% sulle soglie di povertà. Da noi quello che spendiamo se ne va sostanzialmente in pensioni e altri tipi di forme di assistenza, ma non riesce a ridurre, o perlomeno solo per un 2%, a incidere sulla soglia di italiani che vivono sotto il livello di povertà. Lo dico perché ieri eravamo presi anche da tanti altri temi, abbiamo accennato all'Ocse, ma insomma il rapporto dell'Ocse, letto nelle sue pieghe, tra le righe, è un rapporto a mio avviso devastante per il nostro paese, perché al di là di ogni polemica politica, vi prego di non iniziare, fotografa un'Italia in cui quello che ha il sospetto di molti diventa per l'Ocse una certezza. Non penso che l'Ocse possa essere, diciamo, collegata a qualche schieramento politico, ossia il fatto che se in tutto il mondo dei paesi, diciamo, più industrializzati è aumentata la forchetta, la differenza tra ricchi e poveri di un 10% in questi decenni, in Italia l'aumento è stato incredibile, del 33%. Ci sono su 30 paesi dell'Ocse solo 5 paesi dove le differenze tra chi ha tanto e chi ha poco sono più alte che da noi: il Messico, la Turchia, il Portogallo, la Polonia e l'America. Per cui, insomma, paesi di diversi tra di loro, ma insomma non è un bel primato. Se poi andiamo a vedere la dinamica interna, la cosa che lascia ancora più così sorpresi è che fino alla fine degli anni Ottanta il nostro paese poteva vantare un divario tra ricchi e poveri inferiore a quello della Francia, in linea con quello della Germania, cioè eravamo tra i paesi in cui la differenza sociale era meno sentita, meno forte. Adesso siamo scivolati, come dicevo, con i paesi del Sud Europa e altre amenità in giro per il mondo. Ce lo racconta la nostra scheda. Il rapporto dell'Ocse sull'evoluzione della disparità di reddito è anche la storia del viaggio che il nostro paese ha compiuto negli ultimi 20 anni dal nord al sud dell'Europa. A inizio anni 90, la disparità di reddito tra ricchi e poveri italiani era più bassa che in Francia, solo di poco superiore alla Germania e non lontana dai paesi scandinavi, dove le disparità sono le più basse al mondo. Da quel momento la forbice italiana si è però inesorabilmente allargata, spostando i valori italiani vicino a quelli dei paesi del Sud Europa, Grecia, Portogallo e Spagna. È vero infatti che la distanza tra classi sociali è aumentata quasi ovunque, ma da nessuna parte lo ha fatto con la stessa velocità che in Italia. Dal 1990 ad oggi la disparità di reddito è cresciuta in Italia di ben il 33%, vale a dire circa il triplo rispetto alla media dei paesi OCSE. Il risultato finale è che il 10% più ricco possiede oggi il 42% della ricchezza nazionale. Per di più, i poveri italiani sono più poveri che altrove, con un reddito più basso di un terzo rispetto alla media OCSE, mentre al contrario i benestanti sono leggermente più ricchi che negli altri paesi. Rimboccarsi le maniche, purtroppo, serve a poco. Come sottolinea l'OCSE, la mobilità sociale italiana è infatti tra le più basse del mondo occidentale. In pratica, chi non nasce benestante ha ben poche probabilità di diventarlo, poiché le condizioni della famiglia di origine influiscono molto di più rispetto a meriti o titoli di studio. Alla luce di queste indicazioni, consolerà poco sapere che la crisi finanziaria non sembra invece voler fare distinzioni di redditi e classi sociali. Secondo l'Associazione Italiana di Private Banking, ossia le divisioni delle banche che gestiscono i grossi patrimoni, nel corso del 2008 le disponibilità delle famiglie italiane più ricche si sono ridotte per la prima volta, scendendo del 6% a 779 miliardi di euro. Il numero dei paperoni, con depositi superiori al 500.000 di euro, si è ridotto del 15% a quota 590.000. Allora, ripeto, nessuna polemica politica, però il dato andrebbe studiato e vorrei vedere anche qualche reazione, perché ci siamo occupati, la classe politica si è occupata molto di Alitalia, di quant'altro, ma insomma sono dati che fotografano un paese sostanzialmente fermo, in cui chi nasce povero resta povero, chi nasce ricco resta ricco, la differenza aumenta più che negli altri paesi. c'è qualcosa che non sta funzionando in Italia, e vedo che molti di voi scrivono: beh, è colpa dell'euro. Sì, l'euro ha sicuramente creato, ormai lo sappiamo per certo, un impoverimento nel lavoro dipendente, e ha invece, lo dice la stessa Banca d'Italia nell'ultimo rapporto, invece il lavoro autonomo è riuscito a recuperare e anzi aumentare il reddito medio. Ma non può essere solo l'euro, visto che il rapporto parte dal 1990. Alcuni di voi scrivono sulla lotta all'evasione fiscale. Certo, se fatta in maniera corretta e non punitiva, e andando appunto a colpire le grandi forme di evasione, quello sarebbe un elemento redistributivo. Da più parti lo notiamo. Ma insomma, l'OCSE ce lo dice, mi auguro che in qualche modo nel prossimo rapporto possa essere invertita la tendenza. Stanti così le cose, è difficile che ripartano i consumi in un paese che vede aumentare il divario tra chi tanto ha e chi poco ha, anche perché la famosa teoria della classe agiata di Toris Veblen non è che quando uno ha milioni e milioni di euro possa comprarsi 80 macchine e consumare 10 volte di più, consuma sempre quello che consuma un normale cittadino. E allora Sangalli, oggi presidente della Confcommercio, dice: occorre mettere in campo la leva fiscale per rilanciare i consumi. Gli stessi commercianti hanno capito che non si va da nessuna parte se il lavoro dipendente, cioè chi viene tassato alla fonte, non riesce a ottenere più potere d'acquisto. È inutile polemizzare su questo, lo dico a chi scrive. Sentiamo Sangalli. La questione non è quella di allentare il rigore sui conti pubblici. Bisogna continuare a lavorare per costruire condizioni di riduzione strutturale della pressione fiscale, riducendo la spesa pubblica improduttiva, recuperando evasione ed elusione. Ma intanto qui ed ora è anche il momento di confermare e rafforzare le misure di riduzione del prelievo fiscale su straordinari, premi e sulla redistribuzione degli incrementi di produttività, e di verificare la praticabilità di misure di alleggerimento della tassazione sulla tredicesima. Certo, la detassazione totale della tredicesima costerebbe tra gli 8 e i 9 miliardi di euro, ma a fronte di questo costo oltre 5 miliardi si tradurrebbero in consumi, migliorando il loro andamento tendenziale di un buon mezzo punto. Quindi varie le ipotesi, ma lo stesso presidente della Confcommercio dice: attenzione, occorre lavorare sulla leva fiscale, levate i messaggi da ogni ideologia. È chiaro che c'è una responsabilità anche della politica se il divario è aumentato dagli anni 90 adesso. Si stava solo dicendo: non leghiamola a un colore politico necessariamente. Ma insomma, se gli stessi commercianti si rendono conto che occorre operare sulla leva fiscale del lavoro dipendente, Sangalli parlava di tredicesime, forse chi, diciamo, non ha il lavoro dipendente si rende conto che se continua a essere fermo il consumo, il potere d'acquisto di chi ha la busta paga, il prelievo alla fonte, le tasse le paga tutte, che alcuni scrivano e dicano, forse non si riparte con la domanda interna, con le conseguenze che poi lo stesso Sangalli oggi ha ricordato. Oggi noi vi proponiamo una lettura della questione prezzi per ricordare come l'andamento dei prezzi sia sostanzialmente omogeneo tra l'Italia e gli altri paesi europei, per evidenziare quanto morde la concorrenza nel commercio italiano, ed è una verità dolorosamente certificata da una riduzione dello stock di imprese commerciali di 15.000 unità negli ultimi 18 mesi, da un ricorso alla cassa integrazione cresciuto del 111% nei primi 5 mesi dell'anno. Negli ultimi 10 anni hanno chiuso 500.000 imprese. Allora, molte le ipotesi che leggo, alcuni di voi dicono è colpa dell'abolizione della scala mobile. A mio avviso no, la scala mobile era un grande generatore di inflazione, e l'inflazione va a colpire soprattutto i redditi bassi, perché quelli sono i salari che non riescono a riadeguarsi, mentre chi ha la partita IVA, lavoro autonomo, come col rapporto lira-euro ce la fa rapidamente a cambiare, diciamo, i listini. Quindi attenzione alle false letture, almeno a mio avviso. Alcuni di voi dicono è colpa della Cina, della concorrenza cinese. Sì, va bene, però voglio dire, qui non stiamo ragionando di un impoverimento complessivo del paese, stiamo ragionando di un impoverimento di chi già era nella fascia bassa e un aumento della ricchezza di chi già era nella fascia alta, cioè il divario che è aumentato. E la Cina c'è anche per la Francia, c'è anche per la Germania, c'è anche per la Spagna, che invece questo aumento del divario non l'hanno avuto. Nessuno se l'è presa con l'euro. In questo programma l'euro è stato difeso anche in anni in cui non era così popolare, ed è verissimo quanto scrivono alcuni che l'euro in questo momento, meno male che c'è l'euro con quello che sta succedendo sui mercati mondiali, si è solo detto che nel passaggio lira-euro forse qualche controllo in più andava fatto e forse occorreva anche gestirlo in maniera meno sperequativa. Tutto qua. Adesso però, mentre l'euro è sceso a 1,2841, così partiamo subito sui mercati, e il petrolio è sceso sotto i $70 al barile, a $68 al barile, la chiusura delle borse, meno 3,6% Milano, che è tra le migliori, perché Parigi ha perso il 5,1%, Francoforte il 4,4%, Londra il 4,5%, l'America sta perdendo il 3,1%, inizia a essere pesante il Dow Jones, mentre il Nasdaq meno 1,7%, e la peggior borsa però è stata quella di Madrid. Allora, per capire che cosa è successo a Madrid, anzi, colleghiamoci subito con Madrid o con Buenos Aires, vediamo chi ho in collegamento. No, c'è qualche problema nei collegamenti. Allora, Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Livia, adesso arriveremo alla situazione della borsa spagnola. Cerchiamo di capire, Tenaris è legata proprio all'esposizione di Tenaris in Argentina, il titolo è quotato anche Buenos Aires, ha perso il 14,7%. Che è successo a Finmeccanica, meno 11,1%? Allora, Finmeccanica aveva già perso l'8% ieri, oggi ha perso appunto l'oltre 11% dopo varie sospensioni per eccesso di ribasso. La società, secondo gli operatori, si sta allineando al prezzo dell'aumento di capitale, che è stato fissato a 8 euro. Il mercato quindi cede le azioni che valgono di più e compra i diritti, visto il forte premio a cui trattano i titoli, un premio che questa mattina in apertura era pari circa al 35%. Oggi inoltre il Ministero dell'Economia, che è azionista di Finmeccanica, il socio di riferimento, ha dato il via all'operazione finalizzata al collocamento dei diritti, che saranno validi per sottoscrivere azioni pari al 3,5% del capitale. E questo quindi, diciamo, spiega il forte calo. I titoli si stanno, se ho ben capito Olivia, si stanno allineando al prezzo dell'aumento di capitale, no? Cioè verso gli 8 euro per azione. Infatti il titolo ha chiuso a 9,61 euro, beh, c'è ancora margine per quel livello. Tra l'altro Finmeccanica oggi ha annunciato di aver chiuso l'operazione di acquisizione del 100% della società americana DRS Technologies, che è un colosso nelle tecnologie civili e militari, e operazione che vale e che costerà a Finmeccanica 5 miliardi di dollari. Continuiamo con i titoli. Unicredito, sull'allarme bomba, da quello che sappiamo è rientrato, per cui si è trattato di un gesto di un idiota, ma nulla di più per fortuna. Lo dico a chi ci sta scrivendo preoccupato per l'allarme bomba nella sede di Unicredito in Piazza Cordusio a Milano, sede centrale. Continuiamo con i titoli. Dicevo, Unicredito perde il 7,3%, Impregilo il 6,4%, Saipem meno 6,2%, Italcementi meno 5,80%, Mondadori meno 5,3%, Ubibanca meno 5,1%, Seat meno 5%, Fondiaria meno 4,6%, Buzzi Unice meno 4,4%, Lottomatica meno 4% come Pirelli, Monte dei Paschi meno 3,80%, Geox meno 3,6%, Telecom meno 3,4%, Intesa meno 3,2%, Fastweb pure, L'Espresso meno 3,1%, Generali meno 3%, Eni meno 2,9% come Enel, Prismian meno 2,80%, Autogrill meno 2,4%, nonostante l'euro debolissimo, il dollaro quindi in rafforzamento, Fiat perde il 2%, la Banca Popolare di Milano l'1,80% come Atlantia e Unipol. Positiva Terna più 3,2%, Parmalat più 1%, Snam un leggerissimo rialzo dello 0,12%. Le banche, ascolteremo anche le parole oggi del presidente dell'ABI Faissola, e comunque le varie banche oggi presenti sui giornali hanno smentito di aver bisogno di fare aumenti di capitale. Come mai così male? Sì, allora innanzitutto bisogna dire che gli investitori stanno iniziando a fare i conti con il timore che la crisi finanziaria si sposti sull'economia reale. Beh, sicuramente hanno influito le parole del premier Silvio Berlusconi di ieri, che ha sottolineato che altre 2-3 banche a parte Unicredit avranno dei vantaggi a aumentare il proprio capitale, nonostante le banche oggi abbiano detto che di avere situazioni patrimoniali solide. Allora, per quanto riguarda Unicredit, che ha perso il 7,33%, allora oggi Royal Bank of Scotland ha tagliato il giudizio da tenere a vendere. La stessa cosa è stata fatta per Intesa San Paolo. E inoltre, alla vigilia, JP Morgan aveva spiegato in un report che le banche italiane hanno ancora un deficit da colmare di 18 miliardi di euro di capitale, e secondo la banca d'affari americana le banche che hanno bisogno di più capitale sono proprio Unicredit, Intesa San Paolo, MPS e il Banco Popolare, mentre Mediobanca, secondo JP Morgan, sarebbe a posto con i propri coefficienti patrimoniali. Allora, dopo le informazioni su chi è e per chi è in viaggio, sentiremo anche le voci delle banche. A chi ci scrive che l'OCSE e le statistiche sono tutte opinabili, beh, invito comunque, per un ragionamento un po' più empirico, andare a fare la spesa e vedere quello che è il prezzo in un supermercato, in un alimentare, e quello che si porta a casa, considerando che gli stipendi degli italiani non sono stipendi da decine di migliaia di euro. Allora, Livia Zancanelli, un ultimo titolo, SEAT, pagine gialle, meno 5%. Sì, allora, secondo gli esperti, le azioni sono state penalizzate soprattutto dalle vendite da parte degli hedge fund, più che dall'andamento dei fondamentali. Infatti gli analisti ritengono che SEAT raggiungerà il target di margine operativo lordo stimato dal mercato per fine anno, e avendo avuto rassicurazioni in tal senso. Inoltre, l'11 novembre si riunirà il CDA della società per i conti del trimestre, e in quella data i consiglieri potrebbero fare il primo punto sul nuovo piano industriale che poi verrà presentato fino a novembre, inizio dicembre. Grazie Livia Zancanelli, Radio Corriere del Sole 24 Ore. E allora spostiamoci subito a Buenos Aires, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Roberto Darin. Buonasera Roberto. Buonasera a voi. E saluto anche Michele Cacaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, dalla Spagna. Buonasera anche a te Michele. Buongiorno. Roberto, noi abbiamo letto una cosa sull'Argentina, un'ipotesi di nazionalizzazione dei fondi pensione privati, però in realtà vanno male oggi a Madrid e anche in Italia tutti i titoli che hanno attività economica, penso a Tenaris, Santander, Repsol in Argentina. Qual è il rischio e che cosa è successo? Perché la situazione ha avuto un'accelerazione improvvisa oggi, prego. Semplicemente questo, che la presidenta Cristina Kirchner l'altro giorno ha annunciato la nazionalizzazione del sistema pensionistico. Questo significa ha generato timori nei mercati, che vedono questa operazione come il prosieguo di una tendenza che è quella verso la totale nazionalizzazione dei comparti più importanti del sistema economico argentino, e quindi da qui l'effetto borsa a picco e l'inquietudine degli operatori. Ora, obiettivamente questo governo ha effettuato delle operazioni di nazionalizzazione che non sono piaciute e che hanno generato incertezza, però i timori di un default, cosa che si legge sulle agenzie e sui siti, sono piuttosto infondati, perché il quadro economico, macroeconomico e macrofinanziario dell'Argentina di oggi è tutto diverso da quello del 2001. E questo è già rassicurante, Roberto, quindi anche un po' di esagerazione nelle agenzie che dicono che il mercato teme un default, un crack in Argentina. Se ho ben capito, a affossare i titoli attivi anche in Argentina è così l'ipotesi o la speculazione che vi possa essere una nazionalizzazione anche di altri settori? Esattamente, quindi si teme che da qui si possa procedere ad altre nazionalizzazioni. Qualche settimana fa il governo ha avuto un incontro a Madrid con Zapatero sulla questione Aerolíneas Argentinas, e qui anche si prospetta un'altra nazionalizzazione. Quindi diciamo è una tendenza nazionalizzatrice questa del governo di Cristina Kirchner, che segue a quello del marito Nestor. Detto questo, come ripeto, non ci sono le condizioni catastrofiche, cioè questa è un'economia che continua a registrare tassi di crescita sorprendenti al 6,5% quest'anno, al 7,5% l'anno scorso, quindi ovviamente ci sono dei problemi, però rivedere o cercare delle similitudini con il 2001, l'anno del crack, è davvero improbabile, nessun economista intellettualmente onesto lo fa. Grazie Roberto, perché era importante questa tua analisi vista da Buenos Aires e quindi che leva anche dei dubbi così di qualcuno che si diverte a creare allarmismo come se già non ci fossero situazioni abbastanza difficili sui mercati. Grazie Roberto Darin, corrispondente sulle 24 ore da Buenos Aires. Michele Calcaterra, è per questo che la borsa spagnola oggi ha perso l'8%, è crollata letteralmente con titoli, citavo Repsol, Telefonica, Banco Santander, esatto, in picchiata. Cioè, cosa, hanno paura che gli argentini nazionalizzino le attività presenti nel paese? Beh, sicuramente sì, anche perché per la Spagna l'Argentina è uno dei paesi latinoamericani insieme a Brasile e Messico dove sono più presenti. Hai citato tu le principali aziende che sono presenti lì e che sono poi tra i più grossi gruppi spagnoli. C'è però da relativizzare abbastanza, perché per esempio Repsol che lavora molto in Argentina, però da quanto ne sappiamo è un'attività per il momento in perdita, nel senso che i costi sono molto elevati. BBVA, che gestiva le pensioni del sistema argentino, insomma è lo 0,01 dei suoi profitti, per cui molto poco. Telefonica ha una presenza storica, per cui ampiamente ammortizzata, insomma anche gli effetti di una nazionalizzazione sarebbero sì pesanti, però insomma bisogna anche dire che non è che sarebbe la morte di questi gruppi, anzi potrebbe essere magari un'opportunità. È vero che gli spagnoli sono già stati scottati, perché Aerolíneas Argentinas è controllata dal gruppo Marsans e quindi dagli spagnoli. Beh, mi fa molto piacere che Roberto Darin in collegamento da Buenos Aires, tu in collegamento da Madrid, gettiate un po' d'acqua sul fuoco, perché chiaramente i mercati in questo periodo approfittano di qualunque speculazione, ipotesi, tu, citando le cifre, insomma, se l'attività argentina è così poca cosa, tra virgolette, per questi colossi, per carità, ma si tratta di nuovo di un gioco al massacro, ossia di andare a vendere sulle speculazioni, non di fondamentali di bilancio, men che meno economici. Grazie anche a Michele Calcaterra in collegamento con noi da Madrid. E allora, una volta tanto, chiudiamo la prima ora con notizie tranquillizzanti e rassicuranti, apriamo la seconda parlando dell'ABI, che ha detto non ci risultano altri casi di banche che hanno bisogno di aumenti di capitale, ma soprattutto noi tuteleremo tutti gli obbligazionisti che hanno comprato obbligazioni Lehman Brothers. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, quindi chiarito che si tratta di speculazioni assurde, quelle che hanno ipotizzato oggi un rischio default, nuovo default in Argentina, chiarito anche che per quanto l'Argentina sia un paese importante per i grandi gruppi spagnoli e anche per Tenaris, anche in questo caso prevalgono le speculazioni, perché le cifre o l'incidenza del giro d'affari di questi grandi gruppi iberici nella loro attività argentina è minima. Andiamo avanti con la crisi, quindi il diario della crisi, come la chiamano alcuni giornali. Oggi sono arrivate due notizie. Da un lato Mediolanum, o meglio i due maggiori soci di Mediolanum, e quindi Ennio Doris e la Fininvest, hanno annunciato che si faranno carico delle perdite di tutte quelle polizze index linked che hanno venduto i clienti, che al loro interno contenevano obbligazioni Lehman Brothers. Si sono impegnati i due soci a effettuare interventi finanziari che consentiranno a Mediolanum una dotazione patrimoniale per complessivi 120 milioni di euro, che il danno massimo stimato da Mediolanum per quello che riguarda le polizze vendute ai clienti con dentro obbligazioni Lehman Brothers. Ricordo per correttezza che queste obbligazioni Lehman Brothers avevano un ottimo voto da parte di Standard & Poor's, non è che fossero obbligazioni a rischio. Ancora sul fronte bancario. Se Alessandro Profumo dice l'epoca delle acquisizioni è finita per Unicredit, ora ci focalizziamo sulla crescita interna, il presidente di UbiBanca Zanetti esclude il bisogno di un aumento di capitale, sono fantasie quelle sulla banca popolare. E ancora Mazzotta, presidente della Popolare di Milano, dice non esiste nessun bisogno di aumentare il capitale, così come nessun timore, dalle parole di Berlusconi, ha detto di avere Corrado Passera numero uno di Intesa San Paolo, per cui ieri Berlusconi mi ha detto ci saranno altre due o tre banche che avranno bisogno di ricapitalizzare oltre a Unicredit. E poi dall'ABI, dall'Associazione delle Banche Italiane, oggi si è riunito l'esecutivo a Milano, il presidente Corrado Fassola ha detto daremo assistenza agli obbligazionisti, a tutti gli italiani che hanno comprato obbligazioni Lehman Brothers. Sentiamolo al microfono della nostra Anna Marino. Abbiamo deciso che la nostra associazione si attiverà per assistere tutti i portatori di prodotti Lehman, direttamente portatori, quindi fondamentalmente obbligazioni Lehman, per assicurare loro il massimo di efficienza e di tempestività nell'insinuazione al passivo di questo gruppo che è in stato direi di liquidazione, ecco, e per assisterli poi eventualmente, se lo vorranno, anche nella fase successiva, nelle fasi successive. Ci sono già delle modalità previste? È una cosa da farsi con grande urgenza, anche perché le procedure concorsuali non sono in un unico paese ma in più paesi, e quindi per ognuna ci sono modalità e formalità diverse. Come sistema bancario italiano siete sereni per quanto riguarda anche la crisi? Beh, allora noi siamo sereni, come si può essere sereni in una situazione in cui sta cambiando tutto il mondo con una rapidità e anche con impatti estremamente importanti, non solo sui singoli aspetti dei problemi ma anche proprio sulla stessa organizzazione mondiale della finanza, ecco, tant'è vero che si parla di fare un altro Bretton Woods. L'associazione bancaria italiana è assolutamente ipercapitalizzata per svolgere il proprio ruolo. La capitalizzazione riguarda le singole banche, anche perché poi io non conosco assolutamente cosa significa quello che ha detto Berlusconi. Beh, per ora diciamo l'unico gruppo che ha fatto un'iniezione di liquidità dentro il capitale è la Mediolanum, da quello che capiamo appunto 120 milioni che verranno messi dalle famiglie dei due maggiori soci, ossia appunto Mediolanum, cioè Ennio Doris e Fininvest. Tra l'altro lo stesso Doris ha detto che i clienti di Mediolanum con obbligazione Lehman dentro le polizze dovrebbero essere intorno ai 10.000, ecco per il calcolo dei 120 milioni di euro di danno massimo stimato. Allora, domani dicevamo Microsoft diffonde la trimestrale e ne abbiamo parlato con Pietro Scott Iovane, che è amministratore delegato di Microsoft Italia, un'intervista che abbiamo registrato in questi studi. Ascoltiamola fin dalle prime battute e domande. La cosa migliore è che tutte le organizzazioni sindacali... Scusate, c'è stato un problema con il file, chiaramente non era Pietro Scott Iovane ma era il ministro Sacconi, stanno adesso per caricare l'intervista che abbiamo realizzato, visto che Microsoft domani diffonderà una trimestrale e la divisione italiana della multinazionale ha circa 800 dipendenti e 700 milioni di giro d'affari, complessivamente Microsoft invece capitalizza 215 miliardi di dollari. Buonasera a tutti voi. Allora, chi è Microsoft? Mi sembra inutile ricordarlo, comunque vale la pena ricordare questo sì, che capitalizzate circa 215 miliardi di dollari e avete un giro d'affari intorno ai 50 miliardi di dollari, utili registrati per 14 miliardi di dollari. Voi avete tra l'altro avuto un ottimo andamento della trimestrale 2008, la seconda trimestrale, più 43%. A 4,3 miliardi l'utile e più 18% il fatturato. Da questi numeri, dottor Iovane, sembrerebbe che la crisi che sta travolgendo mondo bancario, mondo della finanza, con delle ripercussioni che iniziano ad essere pesanti anche sull'economia reale, a voi non tocchi proprio. Ma dunque, Microsoft in questi 30 anni di vita ha allargato il proprio ruolo e la propria presenza da un punto di vista geografico, da un punto di vista di prodotti e da un punto di vista di mercati. Abbiamo iniziato prima più nel mondo consumer, poi ci siamo allargati nel mondo delle aziende, poi abbiamo guardato al web come un'opportunità. Allora, forse i risultati di questa, della nostra azienda rappresentano diciamo la gestione di un portafoglio equilibrato, guardando a quello che serve per oggi, ma anche continuando a investire per quello che può servire per il futuro. Le do un dato di quel fatturato che lei citava: circa il 13% viene reinvestito in termini di ricerca e sviluppo ogni anno. Questo mette la nostra azienda in una condizione ogni anno di poter sviluppare nuove piattaforme, nuovi prodotti e quindi in buona sostanza metterla in una condizione di potersi diciamo di essere al meglio e sempre più pronta alle sfide che il mercato offre. Sempre per capire come vi state muovendo all'interno di questa crisi, avete annunciato, non voi come Italia, che parlo sempre di Microsoft come casa madre, un aumento del dividendo, una crescita del dividendo del 18%, quindi gli utili che distribuirete agli azionisti, il titolo è quotato al Nasdaq, l'intenzione di avviare un buyback, cioè riacquistare vostre azioni per un totale di 40 miliardi di dollari, una cifra imponente. Terzo aspetto, avete anche annunciato che ricorrerete all'indebitamento, cioè chiederete soldi, immagino, alle banche o ai fondi. Beh, insomma, è un bel esercizio di ottimismo, visto la stretta sul credito che è presente nei vari mercati. Beh, la lettura, diciamo, di più alto, diciamo, guardandola un po' da lontano, fa percepire questo come un segno di fiducia da parte di un'azienda globale, ma pur sempre americana, nel rispetto o guardando al mondo, al mercato finanziario. Cioè, non c'è dubbio che sia un segnale di fiducia complessivo verso il sistema finanziario. Nel dettaglio, poi, in realtà, il buyback, questo ultimo annunciato il mese scorso, si somma a un paio di altri buyback che negli ultimi 5 anni abbiamo annunciato. Noi complessivamente, fra dividendi distribuiti di tipo ordinario e straordinario e buyback, abbiamo restituito al mercato e quindi ai nostri azionisti circa 115 miliardi di dollari. E quindi nella nostra natura ottimizzare l'utilizzo del capitale, che se non serve all'interno dell'azienda è opportuno che venga ritornato, venga restituito appunto agli azionisti. Allora, un'ultima domanda mi interessa invece sul ruolo che Microsoft, come altri concorrenti, può avere per dare una mano al sistema di impresa italiano, impresa e della pubblica amministrazione. Mi spiego, in questo momento le piccole imprese soprattutto sono sotto pressione, sono quelle più deboli nella dialettica, chiamiamola così, nella contrattuale con le banche, perché sono piccole, perché non hanno gli stessi strumenti e rischiano di dover avere un danno ulteriore da una stretta sul credito. L'informatizzazione, tutti i processi a essa collegati, si dice sono anche un elemento competitivo per un'impresa, soprattutto quando è piccola, soprattutto quando non la può sviluppare, diciamo, in casa da sola. Allo stesso modo, anche sulla pubblica amministrazione c'è l'intenzione di renderla più snella, eliminare la carta grazie all'informatizzazione. Ecco, quale potrebbe essere il vostro contributo, stante lo scenario di estrema difficoltà del ciclo finanziario e a questo punto anche del ciclo economico, per dare alle piccole imprese soprattutto un elemento di maggiore competitività e alla pubblica amministrazione un elemento di maggiore efficienza? Ma dunque, pensando alle piccole e medie aziende, mi vengono in mente due o tre temi importanti. Il primo, se una piccola e media azienda adotta piattaforme applicative, che un sistema contabile che permetta di essere percepita ancora in maniera ancora più trasparente rispetto a chi le presta del denaro, questo facilita il processo di avvicinamento rispetto alle fonti di finanziamento o, diciamo, di capitale alternative a quelle del semplice imprenditore. Secondo, come azienda noi promuoviamo una serie di servizi di avvicinamento dell'opportunità dei finanziamenti europei con gli imprenditori, quindi ci mettiamo in mezzo cercando di avvicinare chi ha bisogno di denaro con chi lo mette a disposizione in una forma diversa da quella del mondo finanziario. E abbiamo un progetto che si chiama EUGA ed è proprio destinato a questo. Nell'ultimo periodo abbiamo aiutato piccole e medie aziende ad acquisire circa 4,5 milioni di euro di finanziamenti di vario tipo, anche a fondo perduto, a supporto di progetti di innovazione. Il terzo è che l'innovazione stessa viene sempre più percepita dal sistema finanziario e quindi il software, il hardware e i costi di gli investimenti necessari per mettere questo in attività all'interno dell'azienda come un bene su cui si può erogare un finanziamento. Quindi, pur essendo in buona parte intangibile, quindi non un bene su cui la banca può riflettere, come se fosse un bene strumentale in qualche modo, viene percepito così. E questo è un grande passo avanti, perché certo, effettivamente l'imprenditore viene messo in una condizione di percepirne ha maggior ragione il valore perché lo condivide con il sistema finanziario. Quando penso alla pubblica amministrazione, noi abbiamo degli esempi pratici che magari valeva la pena condividere. Recentemente ad agosto abbiamo avvicinato il governo italiano nel suo sforzo di accelerare un processo di incremento della produttività della pubblica amministrazione, poi questa è un po' la sintesi di quello che il ministro Brunetta sta facendo, offrendo la nostra disponibilità, o in realtà rispondendo a un richiamo che il ministro aveva fatto un po' verso tutto il mondo dell'ICT, e noi ne siamo parte, chiedendo un supporto di investimento da parte degli operatori, testando alcune aree specifiche, verificando come si possa ottimizzare certi percorsi. Le faccio due esempi al volo. Il primo, nella Friuli Venezia Giulia, insieme a un partner, Teorema in particolare, abbiamo osservato il metodo di funzionamento di una funzione della regione, che è quella dell'ufficio del personale, altissimo contenuto di carta, di processi, e che non possono essere saltati perché è un'area particolarmente sensibile. Certo. Analizzato quello specifico ufficio, alla fine di ottobre avremo completato l'analisi complessiva di come dematerializzare quei processi, quindi portarli in una forma digitale, possano liberare tempo, liberare risorse, e verso appunto la fine del mese di ottobre darne una evidenza attraverso una serie di annunci che vorremmo fare. Ci siamo poi premurati di andare a guardare cosa vuol dire digital divide, che vuol dire distanza rispetto a un'opportunità digitale, che non è solo geografica come nel caso del sud, ma a volte è anche un tema di sistemi come quello dell'educazione. Quindi abbiamo investito insieme a una serie di partner in una scuola a Galatina, in provincia di Lecce, trasformando questa scuola in una scuola ad alto contenuto informatico. Quindi disegnando quella che potrebbe essere la scuola del futuro e osservando i risultati da un punto di vista anche di impatto sulla scolarità all'interno di quella scuola, ovviamente nel più lungo periodo. Questo non è un'osservazione di un mese come menzionavo nel caso precedente. Cosa abbiamo messo in questa scuola? Wi-Fi distribuito, lavagne intelligenti, una biblioteca online, e quindi accesso ai contenuti attraverso PC, e quindi la presenza dei PC, perché questo a volte è un passo avanti significativo in una scuola. Quindi ci siamo messi un po' in gioco, noi lo facciamo in realtà non solo mai da soli, lo facciamo sempre attraverso un network, abbiamo circa 25.000 partner in questo paese, e quindi l'abbiamo fatto in questa modalità. Staremo a vedere cosa succede, ma dalle esperienze che noi siamo fatti, dai programmi che peraltro noi sviluppiamo anche in altri paesi, queste sono due o tre aree in cui sicuramente la pubblica amministrazione accelererà. Un'ultima domanda, in realtà così chiudiamo sui temi generali e non più italiani, torniamo da dove eravamo partiti. Per curiosità, dopo il fallito tentativo di acquistare Yahoo, voi che cosa avreste voglia di fare? Perché anche da voi sembra di capire che più grosso sei, più reggerà nel futuro. Yahoo per noi era un'opportunità di accelerare una strategia, ci permetteva di arrivare ad alcune semitappe in tempi più brevi, banalmente. Cosa ci avrebbe permesso di fare Yahoo, o in generale cosa abbiamo in mente di fare con la nostra strategia online? Di investire direttamente. Abbiamo annunciato l'apertura di 3 centri di ricerca per lo sviluppo dei motori di ricerca che seguano il territorio, che siano più presenti nel territorio, specificatamente in Europa. Questo sostanzialmente ci permette di sviluppare localmente, in 3 paesi europei, tecnologia legata agli usi e costumi e alla logica di funzionamento della lingua nei singoli paesi. Perché noi pensiamo che il motore di ricerca, che è uno dei pezzi che fa la differenza nel mondo dell'online, quello forse più utilizzato dai consumatori insieme all'instant messaging e alla lettura dei portali dei contenuti, non debba solo essere quello che è oggi, l'abilità dell'utente di scrivere una serie di parole chiave che permettono di trovare il risultato, e sta quasi più nella bravura dell'utente nell'azzeccare la combinazione delle parole e avere il risultato, ma di interpretare le intenzioni di quell'utente. Se quell'utente in quel momento è in viaggio, è su un treno e sta andando verso Roma e cerca hotel Roma, e il fatto che sia in viaggio, che sia in movimento, può aiutare a identificare immediatamente un tema di un albergo, di una macchina e così via. Questa è la nostra intervista con il numero uno di Microsoft Italia. Domani, ripeto, usciranno i dati, i conti trimestrali. Pietro Scott Iovane è il suo nome. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. L'ultimo aggiornamento che vi do è su Wall Street. Sta leggermente recuperando, meno 2,8%. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.